chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Suona chitarra, che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto. Accompagni in sordina la voce che è quasi un lamento, o se come un'orchestra vivente più forte del vento. Oh mia chitarra, ti amo tanto perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con me. Ti odio tanto per le volte che tu non ti bravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra, quando dico parole d'amore alla mia innamorata, quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata, ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, accompagni canzoni stonate tra il riso ed il pianto. Suona chitarra, ti amo tanto perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con me. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra, oh mia.